Imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Portnar. Parte seconda, lezioni 22 e 23. Continuiamo con Zohar, pagina 6, colonna a destra nel mezzo. Spero che tu non faccia troppe domande, perché se lo fai, devo rispondere alle domande e poi non impariamo. L'intera lezione sarà parlare e parlare. Tutto l'apprendimento è e deve essere ritrovato nel libro Zohar. Quindi presta attenzione e concentrati. Apri il tuo cuore e chiudi la mente per proteggerti dalle preoccupazioni quotidiane. Questo è l'atteggiamento di cui hai bisogno. E quindi non si può chiedere perché non possiamo calcolare i 5 sfirot che sono racchiusi in ogni kahab per il numero di sfirot, ma solo da tiferet. È calcolata proprio qui la sfirà per il numero dal totale di 10 sfirot. Ci sono 10 sfirot e solo Tiferet ne ha 6, e questi 6 li calcoliamo con i 10 sfirot. La domanda è: perché non Keter, Kokma e Binah? E cioè, perché in realtà il recinto di una sfirà in una sfirà non aggiunge nulla al numero dei 5 sfirot essenziali, che sarebbero adatti per lo speciale, in contrasto alla recinzione dei 5 sfirot di Tiferet. In un certo modo ci sono solo 5 sfirot che sono l'essenza. I 5 sfirot di Tiferet devono essere visti come una sfirà e non c'è aggiunta in alcun modo. Ma Tiferet è diverso da Keter, Kokma e Binah, come ci spiegherà in modo chiaro. L'unica cosa di cui hai bisogno è di fare e chiudere la tua mente e aprire il tuo cuore. Ogni cosa dipende da te. I 5 sfirot di Tiferet sono chiamati corpo o busto, e Keter, Kokma e Binah sono la testa. Cosa c'è nella testa? Kokma è saggezza, proprio come negli umani. Kokma è saggezza nella testa e ha una luce molto fine, raffinata, da confrontare con la luce dei pensieri, che è una luce più raffinata delle luci del cuore, della passione, eccetera. Proprio come negli umani, i desideri più raffinati sono nei pensieri ed essi sono molto fini. Nel cuore è la passione e che lo rende più pesante. In questo si vede il confronto con lo spirituale, e tutti e 10 gli sfirot sono costruiti in questo modo. Nella testa, Keter, Kokma e Binah, sono la luce Kokma. Il corpo, Chesed, Gvura e Tiferet, sono l'area di Hasadim. La luce di Hasadim è più ruvida di Kokma. Kokma entra nei Hasadim, lo stesso come i nostri pensieri. I pensieri sono nel mezzo, sono il centro epico. Viene un pensiero e il passo successivo è che dai a quel pensiero una forma. In un certo senso si potrebbe dire che un guscio copre il tuo pensiero. Il passo successivo è il senso di sentimento, emozione e formano nuovi gusci. Come vedi, lo spirituale è profondamente collegato con il nostro mondo. Qui ci dice con Tiferet è diverso, perché Tiferet è il corpo e nel corpo è la luce di Hasadim. Questo è nuovo per noi. Chesed, Gvura e Tiferet sono il corpo e lui dice che sono rinnovati, sono diventati più nuovi. Questo non è accaduto nella testa. Nella testa c'era solo Chokhmah, ma ora sono diventati Chassadim. Perché quei cinque Sfirot hanno nomi diversi? È bene imparare le leggi spirituali. Se ci sono nello spirituale due oggetti che hanno qualcosa in comune, allora stanno allo stesso livello. In un modo essi si intersecano. Se ci sono due oggetti spirituali e uno proviene da un'altra area, riceve la qualità dell'altro. O in altre parole, ora vi è aggiunta una nuova qualità che li rende diversi e quindi si separano. Ancora una volta, da un oggetto spirituale nasce un nuovo oggetto spirituale. Una volta che un oggetto è venuto a contatto con un altro oggetto, è visto. Significa che ha ricevuto nuove informazioni, sarà separato e diventa un nuovo oggetto. Lo stesso accade qui con la Sfira Tiferet. Lei è il corpo ed è separata dalla testa. Questo potrebbe accadere perché qui è aggiunto Chassadim, che non era nella testa. Tiferet ha ricevuto nuove qualità e nuove qualità significano nuovi nomi. Ma ancora i cinque Sfirot sono diventati in lui nuovi aspetti, il che significa cinque tipi di Chassadim, come si dice sopra. Cosa c'è di nuovo in Tiferet? Tiferet ha ora cinque tipi di Chassadim. Chesed di Chassadim, Gvura di Chassadim, tutti i Chassadim, luce di bontà, Tiferet di Chassadim, Netzach di Chassadim, Hod di Chassadim, cinque. Questo è nuovo ed è conteggiato con il numero dei 10 Sfirot generale. Questa è l'unica cosa che cerca di dirci. E quindi sono marcati come 5 aspetti speciali negli Sfirot ed entrano e sono contati negli Sfirot. Sono nuovi e diversi dalla testa. Differiscono da Keter, Chokhmah e Binah perché sono Chokhmah. E ora vediamo la qualità dei Chassadim. Hanno un nuovo aspetto e sono visti come un nuovo aspetto spirituale. Gradualmente vedrai che è la logica divina. Quello che cerca di spiegare è che non Chesed, non Gvura, ma Tiferet è la qualità dei Chassadim, sebbene tutti appartengano al corpo, ma Tiferet è nel mezzo, quindi lei è il cuore. Il cuore di Tiferet è Tiferet. 5 Sfirot e Tiferet è il cuore, o in altre parole, il corpo stesso è Chesed, Gvura Tiferet. Ogni Sfira ha una parte superiore, una parte centrale e una parte inferiore. Questa è la logica divina e devi realizzare che senza questa logica divina è impossibile capire. Quando questo è stato dato al tempo stesso, fu insegnato Shlavetz, che è più facile da imparare perché ha a che fare con il lavoro spirituale. Ma qui è solo l'albero di vita. Quindi ogni sfira ha tre cose. La parte superiore che si collega alla sfira superiore di lei. La sfira inferiore che si collega a quelli sotto di lei. La parte centrale di una sfira che è la vera sfira. Inteso? Vorrei provare a spiegarlo in altre parole. La parte superiore di Tiferet si collega a Gvura. La sua parte inferiore collega Tiferet con la sfira sotto di lei, ossia Netzach. E la parte centrale di Tiferet è la qualità del Tiferet stesso. Per esempio, prendiamo Chokmah. Anche lei ne ha tre. Naturalmente la sfira Chokmah ne ha 10, ma anche lei ha la sua parte superiore, parte inferiore e parte centrale. La sua parte superiore è collegata a Keter. La parte inferiore è collegata a ciò che è sotto di lei e la parte centrale è Chokmah stessa. In questo puoi vedere che 10 Sfirot sono divisi nella testa in tre, cioè Keter, Chokmah e Binah, parte centrale, Chesed, Gvura e Tiferet e la parte inferiore. In un certo senso abbiamo la stessa divisione, vale a dire testa, busto e gambe. Siamo costruiti esattamente nello stesso modo della costruzione spirituale. Ogni cosa esiste in quel modo. Vedi questo aspetto che solo Tiferet è considerata come sei Sfirot Chagat Neyei, vale a dire perché sono meno di Gar, è per dire che sono considerati solo come luce, Chassadim come viene spiegato. Qui si dice che solo Tiferet ha sei Sfirot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod, e tuttavia sono meno del Gar, i primi tre Sfirot, che sono Keter, Chokmah e Binah. Qui spiega che Tiferet ne ha sei. Questi sei sono composti da 5 più 1 e continua a spiegare. Dice che sono meno qualitativi confrontandoli con la testa perché nella testa c'è Chokmah e qui è Chassadim, ma sono aggiunti ai 10 Sfirot. Questo cerca di spiegarci. Gli Sfirot della testa sono contate come uno che significa che Keter è una Sfira, Chokmah è una Sfira e Binah è una sfira, ma Tiferet ha 5 sfirot più Yesod, 6. Non preoccuparti, continua con la spiegazione. Sono visti separatamente perché sono Chassadim, la luce Chassadim, la luce di bontà. Ora vedi che tutti quei numeri che sono portati nel numero di Sfirot non sono meno del numero di 10, che è l'essenza, è solo 5 Sfirot. Abbiamo già visto i numeri di 7, 6, 5, 10 e 13, ma nell'essenza ce ne sono solo 10, perché Tiferet ne ha 6, niente di meno e niente di più, esattamente non meno e non più di 10 Sfirot, ma nell'essenza sono 5. Perché quando si dice 10 Sfirot, l'intenzione è, con 6 Sfirot individuale, speciale, di Tiferet. E quando diciamo 5 Sfirot, l'intenzione è senza lo speciale del Vak, 6 estremità che sono in Tiferet. Perché quando si dice 10 Sfirot, l'intenzione è, con 6 Sfirot individuali speciali, di Tiferet. Quando parliamo di 10 Sfirot, includiamo i 6 Sfirot di Tiferet. I 6 Sfirot di Tiferet differiscono dalla testa. La testa è Chochmah e il corpo è Chassadim. In questo vedi quanto importante è che noi diamo a loro un nome. Lascia che ti dia più informazioni. I 6 Sfirot sono aggiunti perché ciò che è nella testa è arioso e ciò che è nel corpo è più spesso. Quindi ogni piccola differenziazione è importante. Ogni chassadim dà un altro gusto al corpo, pertanto sono chiamati individuali. E quando diciamo 5 Sfirot, l'intenzione è senza lo speciale del Vak, 6 proprietà estremità che sono in Tiferet. Fai attenzione, 6 Sfirot. Cosa c'è di nuovo in Tiferet? Lei ha 6 proprietà estremità. Il desiderio del creatore era di creare il mondo, non la luce. Naturalmente è necessaria la luce, ciò che è nella testa Chochmah è necessario per penetrare la creazione, per darle luce, ma il desiderio del creatore è creare il mondo. Che cosa è il mondo? Zerampin e Malkut sono chiamati il mondo. Come mai? Hanno 6 proprietà estremità, 6 direzioni. In un certo senso puoi confrontare questo con gli aspetti spaziali, la forma. Questo diventa visibile per la prima volta in Tiferet. Quindi lei è contata con i 10 Sfirot. Solo Zerampin a destra, sinistra, davanti, dietro, alto e basso. Lo stesso l'abbiamo qui sulla Terra. È lo stesso risultato perché, come sapete, c'è la proiezione di come sopra così è sotto. Quindi sei proprietà estremità. In questo puoi vedere che Tiferet è la stampa blu del mondo che viene, quindi lei viene contata con i 10 Sfirot. Ora continua con il numero 6. Prima ha parlato del numero 10 e 5 e ora continua con il numero 6. Perché 6? Questo è quello che dice. E il numero delle 6 proprietà estremità è il segreto del recinto in Tiferet, con il suo comprensivo nome Yesod. e il numero di 6, proprietà estremità, significa che queste sfirot, anche perché che queste sono sfirot, anche perché ogni fine ha un colore specifico. La sua propria qualità è il segreto del recinto di Tiferet. Ci sono 5 sfirot personali di Tiferet, ossia Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach e Hod, con il suo globale nome Yesod. Guarda solo e vedi quanto è importante Yesod. Lui è l'ultima stazione in cui la luce può entrare. Qui spiega perché abbiamo bisogno di stare molto attenti in questo mondo. Tutte le cose pesanti corrispondono con Yesod. Yesod deve essere visto come il punto di raccolta di tutti e 5 i punti di forza, che significa che tutti e 5 gli sfirot di Tiferet vengono insieme qui in Yesod. Ognuno di loro entra e dà a Yesod. Come ho detto prima, Yesod è il punto d'incontro. Da Chesed a Hod, tutti loro danno qualcosa e arriva a questo punto chiamato Yesod. Inteso, si potrebbe dire che Yesod è un punto di distribuzione e da Yesod va a Malkut. Questo è l'unico modo per Malkut di ricevere. Deve passare da Yesod, chiaro? E il numero 7 Sfirot è quando li vediamo anche come Malkut con Tiferet. E il numero 7. 7 è anche importante. È un numero sacro. 7 Sfirot è quando li vediamo anche come Malkut con Tiferet. A volte dobbiamo vedere Malkut insieme a Zerampin. Perché? Ti ricordi dall'inizio dello Zohar, nel capitolo della Shoshanah, il Giglio, nel tempo quando Malkut non ha 10 sfirot, è collegata a Zerampin nella forma di una coda? In questo si vede che lei non è ancora individuale. Riceve da Zerampin, ma tutto il potenziale è già dentro di lei, mancano solo i punti di forza. 6 sfirot più Malkut, 7. 7 giorni di creazione. Zerampin è Malkut, Binah è il creatore, Kochma è la forza del creatore e la creazione. Sono le 6 proprietà estremità. Malkut o Nukva, e da loro ogni cosa viene ai mondi. Bria, Yetzira, Assia. È il nostro mondo, è il mondo più basso, il mondo più ruvido di tutti i mondi, dell'intera realtà, qualunque essa sia. Non perderti in tutte le galattiche. Non avere le vertigini quando senti che ci sono infinite cose. Se non vuoi capire come è costruito, allora non ti perdi. Non è necessario alcun tipo di studio. Qui senti tutto nel sistema, sul sistema operativo. E mentre sei seduto nella tua stanza, avrai il sentimento del come e del perché. Non hai nemmeno bisogno di un telescopio per guardare, per vedere come va tutto bene insieme. Essere un Einstein, non riuscirono a capirlo quando scoprì ogni cosa sull'universo. I giornalisti vennero da lui e videro un telescopio sul suo tavolo. e gli chiesero se avesse scoperto la relatività e tutte le formule attraverso quel telescopio. Li guardò e disse: «È successo tutto attraverso la mia testa. Ha usato del suo, non aveva il suo telescopio. So che sembra contraddittorio, ma nella sua testa aveva tutta la comprensione. Faremo esattamente lo stesso». Cosa ci viene dato tramite Zohar e Ari? Un telescopio che non è necessario. Nella tua stanza, mentre guardi le lettere ebraiche, puoi vedere come è costruito l'universo. Ovviamente non tutto, perché i primi tre Sfirot rimangono sconosciuti. In ogni Sfirot c'è Keter, Kokma e Binah, e rimangono sconosciuti. Più tardi te lo spiegherò. Più tardi vedrai che non hai bisogno di nulla. Intendo, avrai una certa comprensione di qualsiasi argomento. Come diciamo in ebraico, ne avrai un assaggio. Non sono necessari dettagli e vedrai da dove viene e vedrai esattamente il suo posto. La Kabbalah è il collegamento tra tutti i soggetti. La Kabbalah è il fondamento di ogni cosa. Per mezzo dell'albero di vita avrai chiarezza, ma per ora basta ascoltare, leggere e sperimentare. Ora continuiamo con il secondo argomento. Ne abbiamo già parlato un po', ma ora andiamo più in profondità. È così grande quello che ci sta dicendo. Bet 2. E ora spiegheremo l'argomento del numero 13. E sappi perché questo numero è nuovo ed è apparso nel mondo della correzione, nel segreto della correzione di un parzuf. Perché in tutti i parzuf, che sono Abia, Azilut, Bria, Yetzira, Asia, hanno solo tre Kelim, che sono Binah, Zerampin, Malkut, e gli mancano i Kelim di Keter, Kokma. Bet 2, e ora spiegheremo l'argomento del numero 13. Questo è il suo modo di parlare a noi. Perché questo numero è nuovo, significa che c'è un'aggiunta ed è apparso nel mondo della correzione. La parola ebraica per la correzione è tikkun. È bene per te di ricordare questa parola, tikkun. Il numero 13 è apparso solo nel mondo Azilut. Questo mondo Azilut è il mondo della correzione, il mondo di Tikkun, perché alla fine, dalla struttura del mondo Azilut, ogni cosa è diventato stabile. In un certo senso puoi imparare ogni cosa da questo mondo Azilut. Tutta la correzione che dobbiamo fare può essere fatta nel mondo Azilut, nel segreto della correzione, Tikkun. Il Tikkun non è semplice correzione, è di più, significa anche la progettazione di qualcosa, e in questo caso il progetto di un parzuf. Un parzuf è 10 sfirot. Di un parzuf in tutto il parzuf Azilut, perché Bria, Yetzira, Asiya hanno solo 3 Kelim. 3 scomparti e non 5. Quindi nel nostro studio di Zohar parliamo di 3 Kelim e non di 5, ci spiegherà perché c'è da Azilut solo 3 e non 5. Basta ascoltare e accadrà. Ci si aspetterebbe 5. Cli per Malkut e Cli per Zerampin, ma lui ne menziona solo 3, e sono Binah, Zerampin e Malkut, e gli mancano i Kelim di Keter Kochma. Da Azilut e negli altri mondi c'è la mancanza di quei due Kelim fino all'arrivo del Messia. È possibile tagliare quei due Kelim? Certo che no. Ciò che intende è che non possiamo sperimentarli. Qui ci dice che ci sono 3 Kelim, Binah, Zerampin e Malkut, e mancano i Kelim di Keter e Kochma. Ti ricordi come disegno la formula di salvataggio? Da Azilut, Keter e Kochma, e poi la linea di separazione. Ti ho detto che Keter e Kochma non possono essere sperimentati, non sono inclusi, qui non c'è ricezione, ricordi? E sotto vengono i Kelim di Binah, Zerampin e Malkut, che sono i Kelim che possono essere sperimentati, ma non Keter e Kochma. Dal mondo Azilut e quelli sotto Briah, Yetzirah e Asiah, Keter e Kochma non possono essere sperimentati fino al Gmar Tikkun, la correzione finale. Ora inizia a spiegare. Devi sapere che quando parliamo dello spirituale manca qualcosa. Com'è possibile che manchi qualcosa se ogni cosa ne ha 5? Hai imparato che ogni cosa ne ha 5, quindi come può essere che manca qualcosa? Se si dice che ci sono 3 Kelim e ogni cosa ha 5, se diciamo che ci sono solo 3, significa che le altre 2 esistono ancora perché ogni cosa è 5, ma il significato di ciò e che non c'è esperienza di quei due Sfirot. Finché non c'è esperienza, significa che non c'è attivazione, e quello dà il sentimento che non esistono. Non c'è un ricevimento perché non c'è la forza di ricevere, e finché non arriva nei Kelim, dà il sentimento che non esiste. E tutta la luce che non può entrare nei nostri Kelim ha il nome di Ein Sof. Il nome di Ein Sof. Inteso? Supponiamo che un bambino stia giocando qui mentre parlo di Kabbalah. Il bambino capisce qualcosa? Il bambino sta giocando con il suo giocattolo. E per lui c'è solo l'esistenza del suo giocattolo, e ogni altra cosa non esiste per lui, è Ein Sof. Chiaro? Non può capire perché gli manca la forza, quindi tutto rimane fuori. Qui lo Zohar ci dice che dal mondo Azilut ci sono solo 3 Kelim, significa che solo in questi 3 Kelim la luce può entrare. C'è forza per ricevere la luce in questi 3 Kelim. Chiaro? Questi 3 Kelim sono Binah, Zerampin e Malkut, e gli altri 2, Keter e Kochma, che non possiamo sperimentare, quindi non possono ricevere. Nell'ultimo disegno puoi vedere che Keter e Kochma non possono ricevere. Per mezzo di una correzione speciale, qualche luce può essere ricevuta e quella è la luce Chassadim. Non la luce Chochmah, ma la luce Chassadim, e dentro la luce Chassadim c'è un po' di splendore di Chochmah. Questo può venire giù. Come viene giù lo impareremo più tardi. Cosa c'è da dire? Non posso esprimere com'è meraviglioso sperimentare tutto, ma abbiate pazienza, accadrà a voi e anche voi direte quanto è grande il Creatore. In ogni situazione, senza eccezione, puoi vedere e sperimentare che puoi portarti all'interezza. Non importa cosa succede fuori, cosa succede con la tua famiglia o con la famiglia dei tuoi amici o cosa succede nel mondo. Non importa, perché sei connesso con il Creatore che è eterno e sei connesso con il suo sistema operativo e in ogni situazione puoi fare uso di questa connessione. Tutti noi possiamo inserire la formula di salvataggio. Sei così privilegiato perché da nessuna parte nel mondo si parla di questo. Nessun orecchio ha sentito questo, nessun occhio ha letto questo, nessun discepolo o chiunque in tutta la storia, e tuttavia hai l'opportunità, la possibilità. Quindi focalizza te stesso e apriti, così puoi sperimentare. Non è difficile, devi solo renderti piccolo e ricettivo per la comprensione superiore. Non faccio nient'altro e quindi lo spazio dentro di me diventa sempre più grande. Il Creatore rende lo spazio più grande, così anche tu puoi avere lo spazio eterno. E in questo spazio riceverai il salvataggio mentre nessuno può vederlo. Sarai salvato proprio come Noè. Qui ci dice che i tre Kelim, Binah, Zerampin e Malkut ricevono la luce. Questo è molto importante. Quindi ricorda questi tre Kelim, Binah, Zerampin e Malkut, perché esistono per noi, significa che c'è forza in noi per questi tre Kelim, quindi possiamo ricevere la luce. I Kelim di Keter e Chochmah mancano, significa che non possono essere sperimentati, pertanto non possiamo effettuare il contatto con loro. E questo già accade nel mondo Azilut. Nel mondo Azilut non c'è la forza per effettuare una connessione con i Kelim di Keter e Chochmah, solo con i restanti tre Kelim di Binah, Zerampin e Malkut. Tre, in molte religioni e filosofie, c'è l'esistenza della Trinità e tutte loro sono un'analogia di questo. Tre parti dove la luce può essere sperimentata. Se si guarda, per esempio, alla Trinità cristiana, si potrebbe dire Binah è il Padre, Zerampin lo Spirito Santo e Malkut il Figlio. Cosa succede? Cosa ci dice? I Kelim di Keter e Chochmah mancano e sai già che non c'è un Kli. La luce non può entrare. E sai già se non c'è un Kli, la luce non può entrare. Cosa succede con le luci che sono destinate a venire nel Kli di Keter e Chochmah? Non c'è un Kli per Keter e non c'è un Kli per Chochmah. Cosa succede con le restanti due luci che in realtà servono anche per venire dentro la creazione? Lui continua, e le luci dei Kli, Keter, Chochmah, quelle luci sarebbero logicamente arrivate nei Kelim di Keter e Kokma. Dove sono? Dice che esse sono incorporate dentro il Kli di Binah, e questo è normale. Questa è una chiara spiegazione. Ci sono solo tre Kelim dal mondo Azilut e gli altri mondi, e tu sei un prodotto di tutti quei mondi. Ci sono cinque luci e possiamo sperimentare solo tre Kelim. Quindi ci sono cinque luci. Ci spiega la luce che logicamente doveva entrare nel Kli Keter e nel Kli Kokma. E ora è ora incorporato nel Kli Binah. In questo vedi che una luce o una sfira è incorporata in un certo Kli e non può essere sperimentata. Significa che non puoi vederla, non puoi comprenderla, ma è nascosta all'interno. Guarda te stesso, guarda agli altri e sappi che tu e tutte le persone intorno a te siete interi, perfetti. Il fatto è che non puoi vederlo. Come mai? C'è una semplice ragione, ossia anche tu hai tre Kelim. Tre Kelim e cinque luci, e le due luci rimanenti che non puoi sperimentare perché ti mancano gli altri due Kelim per le due luci rimanenti. A causa di questo si avrà sempre il sentimento, in un certo modo, Keter e Kokma. Ricorda che Keter e Kokma sono già incorporati in Binah. Non è questo lo stesso principio della formula di salvataggio in cui Kokma era chiusa? Infatti, poi hai visto il Kli di Keter e il Kli di Kokma erano chiusi, e a causa di quello. Sappi che le luci sono ancora lì, ma rimangono inaccessibili e pertanto hai la possibilità di correggerti. Ora puoi capire perché il mondo del Tikkun è il mondo della correzione. C'è stata temporaneamente una chiusura. Lo Zohar parla spesso di chiavi e serrature, serrature e cancelli che possono essere aperti. Questo è un tema ricorrente: porte che si aprono, stanze che si aprono. Se una stanza è aperta, significa che sei pronto per entrare. Significa che puoi vedere il Creatore in un modo completamente diverso. Chiudere a chiave un cancello o una porta significa che c'è la forza di sperimentare cinque sfirot. Vedrai che ogni cosa va in modo naturale. Ma per ora è importante non pensare. Tu già lo sapevi questo. Sai che ci sono tre Kelim e il Kli di Keter e il Kli di Kokma che non possono essere sperimentati. Il Creatore l'ha creato in questo modo, quindi non pensare mai che il Creatore ti abbia deluso. Gradualmente andrai sempre più in profondità e sentirai la formula di salvataggio. C'è sempre un modo per venire alla luce, non importa quale sia la situazione, incurante da ciò che sta accadendo intorno a te. Questo esiste, tre Kelim e due Kelim rimanenti che non possono essere sperimentati. Quindi puoi sperimentare solo tre luci e le rimanenti due luci sono incorporate nel Kli Binah. È chiaro? All'inizio ti ho detto che tutti i corsi che puoi fare, come Shlavetz ed Etz Chaim, specialmente Etz Chaim, eccita il Kli di Binah, o in altre parole, il Kli Binah corrisponde a Etz Chaim, e nel Kli Binah è incorporata la luce di Keter e Kochma. In questo modo puoi vedere cosa intendo quando dico che non c'è bisogno di sapere tutto esattamente, perché in Binah ci sono le due luci rimanenti di Keter e Kochma e indirettamente brillano su di te. Più correzioni fai, più puoi sentire il loro splendore e tuttavia rimangono incomprensibili e tuttavia ti influenzano. Questa luce è incomprensibile e tuttavia influisce, quindi non è necessario rivelarla. Non c'è bisogno di esprimerti pienamente. E ciò che rimane, ci sono forze superiori e stanno con te come Or Makif, la luce circostante. E questa luce è molto più alta. Rimane come Or Makif. E in questo puoi vedere questa luce è molto più alta, molto più forte di quanto tu possa contenere. Quindi c'è lo splendore della luce Keter e Kochma perché sono incorporati nel tuo Kli Binah. Quindi c'è qualche beneficio, ma non provare mai di capire. Dal velato puoi anche imparare se non cerchi di rivelare. Chiaro? In un certo modo impari di più dalle cose che sono velate. Non c'è necessità per la completa comprensione e gradualmente imparerai questo e l'accetterai. E questo è il modo generale. Tre Kelim e Keter e Kochma mancano e la luce di Keter e Kochma è incorporata in Binah. Questo è nel generale. Si dice spesso nulla esiste nel generale che non esiste in ogni dettaglio dell'universo e viceversa. Non c'è nulla in ogni dettaglio, il meno del meno, che non esista nel generale. Lo puoi immaginare. In questo vedi che è bene avere rispetto per la vita, perché tutta la vita è connessa. Il meno del meno è collegato con il tutto. Questo lascia crescere il rispetto per la vita. Quando ero un bambino di 9 o 10 anni, ho camminato in Ucraina e ho visto uno dei miei amici distruggere una rana con le sue mani. I bambini sono crudeli, ricordalo. Il male? Come mai? Il male sta lavorando al 100% nei bambini. Vogliono essere dolci e fortunatamente non hanno la forza di distruggere il mondo. Ma in definitiva in ognuno di noi c'è un Napoleone, non importa se sei un uomo o una donna. Non pensare che le donne non abbiano questo. La crudeltà è anche nelle donne, solo che a loro viene insegnato ad affrontarlo in modo diverso. Un altro ricordo mi viene. Una volta ho visto un ragazzo che aveva legato una torcia sulla coda di un gatto. E un altro ricordo, quando tornavo a casa, un ragazzo più grande ha usato il gatto per lucidare le scarpe. I bambini sono crudeli. L'ho visto e da dove vengo c'è stata più crudeltà. Fortunatamente è passato, ma non è scomparso neanche qui. Ho imparato così tanto e ora non riesco a uccidere una zanzara, perché da tutto l'apprendimento ho rispetto per il più piccolo in vita. Qualunque cosa sia, è parte del tutto ed è stato creato dal Creatore. Così piccolo e minuscolo lo soffi via e anche quella creatura ha 10 Sfirot e 3 Kelim. Tutto lì, puoi immaginare, un topo, un ratto, tutto è importante, alla vita. Ora ci sta dicendo qualcosa di molto speciale. Prima ha parlato del generale, cinque Kelim, Keter, Kokma, Binah, Zerampin e Malkut, e c'è solo l'esperienza di tre Kelim. Anche tu hai tre Kelim di Binah, Zerampin e Malkut, ma ora ci sta dicendo. Comunque, nello speciale, ci sono in ogni sfira questi tre Kelim, e anche in Keter e Kokma ci sono tre Kelim, Binah, Zon in Keter, ci sono anche Binah, Zerampin e Nukva in Kokma. E inoltre c'è Binah Zon in Binah, eccetera, nel seguente modo che i Kli di Keter e Kokma mancano in ogni sfira, e Binah, Zerampin e Nukva sono in ogni sfira. Keter ha cinque sfirot, Keter de Keter, Kokma di Keter, Binah di Keter, Zerampin di Keter e Malkut di Keter. Ci dice che c'è la stessa costruzione nello speciale come nel comune. Non importa dove sono gli sfirot, ovunque la stessa costruzione. Keter e Kokma del Keter mancano e Binah, Zerampin e Malkut del Keter sono presenti. La stessa costruzione in Binah, Zerampin e Malkut di Kokma. I Kelim di Keter e Kokma mancano e Binah, Zerampin e Malkut di Kokma sono presenti. Ricorda questo, in ogni sfira ci sono tre Kelim, Binah, Zerampin e Malkut. E in ogni sfira ci mancano il Keter e Kokma. Come raggiungiamo il numero di 13? Qualcuno è molto attento, si paziente, la risposta arriverà. La risposta è nascosta anche nella formula di salvataggio, e ora lavoriamo a poco su ogni elemento. Prima gli elementi e poi il processo. Ricordati che prima hai bisogno di elementi come i mattoni, e poi il processo, la costruzione. E questi tre Kelim, Binah e Zerampin e Malkut, sono classificati dentro 10 Sfirot nel seguente modo. Come già sai, ogni cosa ha 10 o 5 Sfirot. Se parliamo di tre Kelim, sappiamo che ne mancano due, ovvero Keter e Kokma. Ora stai attento, nel generale ci sono solo tre Kelim, ma questi tre Kelim hanno ciascuno 10 Sfirot. In un certo senso, in tutti e tre i Kelim posso sperimentare 10 Sfirot. Cosa posso fare con i 10 Sfirot che sperimento nei Kelim? In un certo modo li ho distribuiti su tutti e tre i Kelim. È chiaro? Ancora una volta, supponiamo che ci sono 5 Kelim, stanno significando che puoi sperimentare 5 Kelim. Allora c'è un accordo tra i 5 che tu senti e i 5 Kelim che puoi sentire. Ma se c'è solo l'esperienza di tre Kelim, ovviamente lo è di meno. Ti ho detto che è possibile sperimentare solo tre luci, e la luce di Keter e Kokma non le puoi sperimentare, ma considerandoli tutti, i tre Kelim hanno i loro 10 Sfirot. Naturalmente la forza è minore, quindi ci sono 10 Sfirot. Lasciami fare un esempio. Immagina un grande giocatore di basket con una lunghezza di 2 metri, con una altezza di 2 metri, e accanto a lui cammina un bambino di 2 anni. Si potrebbe dire che il bambino piccolo è un decimo o 2 decimi, non importa, ma il bambino è più piccolo del giocatore di basket. Diciamo che è 2 decimi, ma verso se stesso ha anche tutti 10 sfirot. Ha una testa, un corpo, mani e piedi, e anche il giocatore di basket ha 10, una testa, un corpo, mani e piedi. Chiaro? Ovviamente il giocatore di basket è più grande considerando il bambino piccolo, ma entrambi hanno 10. Lo stesso qui. Ovviamente 3 chelim sono meno di 5, tuttavia hanno 10 sfirot. Gioca con questo, ci sono sempre 10 sfirot, anche se c'è una sfira, perché questa sola sfira ha 10 sfirot. Nulla esiste nel generale che non esiste nel particolare e viceversa. Una sfira speciale ha dentro 10 sfirot, chiaro? In questo puoi vedere che ogni cosa è dentro di te, solo che hai bisogno di lavorare su tutti i tuoi 10 sfirot, e tutti i 10 sfirot hanno 10 sfirot, eccetera. Non c'è bisogno di uscire per arrivare alla totalità. Cerca di vedere il mondo come generale, e tu sei lo speciale, significa che correggi i tuoi 10 sfirot e per questo puoi connetterti con l'intero universo. Prima c'è la necessità di amare te stesso, che significa la totalità dei tuoi 10 sfirot. E i tuoi 10 sfirot sono in accordo con i 10 sfirot dell'universo. Una volta che hai corretto i tuoi speciali 10 sfirot, non hai bisogno di nulla, significa che puoi amare l'intero universo. Questo è il momento in cui sei in accordo con le qualità dell'universo. Non c'è bisogno di cercare aiuto perché accade tutto all'interno. Hai solo bisogno di portarti in accordo con le leggi dell'universo. Significa che è il momento che sei diventato l'universo, i tuoi 10 sfirot e i 10 sfirot dell'universo. Egli continua e dice che i 3 chelim hanno i loro 10 sfirot personali, e lui ce lo spiega, perché in ognuno di loro ci sono 3 linee, che sono destra, sinistra, nel mezzo. Destra, sinistra e nel mezzo, o in altre parole busto, o in altre parole testa, busto e il trasporto sotto. Ogni sfira è costruita in questo modo, ma ora lui parla della larghezza. Perché parla della larghezza? Perché la Tzilut ha 3 linee. Qualcun altro? Perché la luce è discesa. Esattamente. La luce è diventata più ruvida. Che cosa era presente di Atzilut? Keter di Adam Kadmon, ricordi? Il grado successivo o il secondo irruvidimento era la Sfira Kokma di Adam Kadmon. Il terzo irruvidimento della luce era Binah o Sag di Adam Kadmon, seguito in quello che chiamiamo il mondo Nekudim, seguito dal quarto irruvidimento, Zerampin. Considerando Atzilut l'intera creazione, è come Zerampin, che significa che Zerampin ha 6 proprietà estremità, e anche la creazione ha 6 proprietà estremità, ossia destra, sinistra e mezzo, eccetera. Egli dà nuove informazioni. Concentrati e vedi che ci sono 3 chelim, Binah, Zerampin e Malkut, e hanno 3 linee. sta significando che in ogni cli ci sono tre sfirot, destra, sinistra e mezzo. Destra è chassadim, gentilezza, sinistra è kochma, gvurot, severità. Kochma non può brillare in modo indipendente. Kochma ha bisogno di chassadim, e quando vedi la parola gvurot o severità, significa che c'è solo kochma senza chassadim. La linea nel mezzo è chassadim con uno splendore di kochma. Guardati intorno, colui che è saggio guarda sdegnosamente e banalizza chi ha fede. Lui non riesce a capire che qualcuno può vivere senza usare il cervello e semplicemente avere fede. E chi ha fede non ha comprensione per colui che usa il cervello. Entrambi hanno carenza, quindi non c'è comprensione l'un l'altro. Chiaro? La forza della sinistra significa un kochma nudo, e kochma ma nudo e non ha calore non è resistente. Puoi confrontarlo con quando ti tagli con un coltello, il che significa che c'è la sensazione del fuoco. Kochma nudo è come un fuoco che non ha calore né chassadim. Non era il desiderio del creatore che avremmo avuto la sensazione ardente di Chokhmà, quindi l'ha mescolato con l'acqua. Chassadim e solo l'acqua non è abbastanza. Abbiamo bisogno di entrambi, fuoco e acqua o Chokhmà e Chassadim. C'è bisogno di Chokhmà, saggezza o nel nostro esempio fuoco. Ma solo il fuoco, kochma nudo, non va bene. In questo puoi capire perché l'Occidente usa l'intelletto e fortunatamente c'è il riavvicinamento sul lato destro, la misericordia, e questo dà grandi cambiamenti perché solo l'intelletto non è abbastanza. Il mondo non è creato solo con il lato sinistro. Se uno è connesso e lavora solo nel lato sinistro, avrà il sentimento del fuoco come se stesse bruciando. Solo nel lato sinistro non dà soddisfazione, non dà un nuovo momento, quindi uno si sforza sempre di più. Inteso? Qual è la linea nel mezzo? Quando c'è l'approccio l'un l'altro, quando Kochma, che è una forza infuocata di saggezza, si avvicina al lato destro che è misericordia e viceversa. La misericordia senza saggezza, senza kochma, non è buona, ma quando c'è l'approccio una nuova linea è stata creata. Questo è stato dato ai tre patriarchi della nazione di Israele. Naturalmente non solo per loro, ma avevano ricevuto questo significato per rendersi adatti e trasmetterlo al mondo intero. È stato affidato a loro ed essi lo portarono. Nel generale Abraham è nel giusto significato amore o chesed. Abramo ha dato al mondo amore, quindi vedi Abramo è il patriarca di molte persone. Abramo è un simbolo per molti di loro e ricevono da lui chesed, amore. Nel generale Isaac, che è il figlio di Abramo, è nella linea di sinistra, è il maestro di Din. Entrambi non sono perfetti, ma abbiamo bisogno di loro entrambi, altrimenti come può qualcuno arrivare alla totalità? Nel generale, Yaakov è nel mezzo, significa che aveva entrambi i punti di forza. Abbi pazienza e verrà a te. Un giorno riconoscerai com'è la struttura dei 10 sfirot. Per ora lui dice che ci sono 3 chelim, Binah, Zeirampin e Malkut. e in ognuna di esse ci sono tre linee, destra, sinistra e nel mezzo. Questo è importante e la ragione di questo viene più tardi. Tre linee in Binah sono diventate Chabad, Chochmah, Binah, Dat. Non c'è disegno, voglio che tu visualizzi, avendo dentro il sentimento. Più tardi, quando sarà necessario, farò un disegno, ma prima farò un disegno all'interno. Dice che ci sono Chochmah, Binah e Dat. Dat è difficile da tradurre. La traduzione più famosa per Dat è conoscenza, ma effettivamente non puoi tradurre questa parola. Dat è Dat, perché lui non menziona Keter, Chochmah e Binah. Non puoi sostituire Keter, eppure dice Chochmah, Binah e Dat. Il generale Keter e Chochmah sono chiusi, e tuttavia parliamo di 10 Sfirot, e questi 10 Sfirot hanno 3 Kelim e sono classificati in questo modo: Chochmah, Binah e Dat. Chochmah è la linea di destra, Binah è la linea sinistra e Dat è nel mezzo, e tutto questo avviene nella testa. 3 parti di 10 Sfirot nella testa e sono chiamate Chochmah, Binah e Dat. 3 linee che sono in Zeranpin sono diventati Hagat, Chesed, Gvura, Tiferet, e 3 linee di Malkut sono diventati Nei, Netzach, Hod, Yesod. Ciò che è nella testa è anche nel corpo. Il corpo è Zeranpin, e anche lui ha 3 linee che sono Chesed, Gvura e Tiferet. Chesed è nel lato destro con il significato di misericordia, Gvura nel lato sinistro con il significato di Din e Tiferet nel mezzo con il significato di splendore. Ti ho appena detto che Chesed è amore ma senza Chochmah, saggezza, Gvura e Din, e lei ha un po' di splendore di Chochmah, ma è senza Chassadim, e solo Chochmah non è abbastanza. Ogni cosa deve venire al centro. Questo è come il mondo è stato creato. E ci sono 3 linee in Malkut. Malkut è il cli più basso ed è diventata Netzach, Hod e Yesod. Netzach significa vittoria. Quando c'è una vittoria, allora c'è una grande festa. In un modo la vittoria è sperimentata come misericordia. Dà il sentimento di trionfo, celebrazione. Hod significa gloria, onore, e differisce dal trionfo. La gloria è più introversa. Vedi come sono collegati questi due, trionfo e gloria, e vedi la differenza. Hod è più interno. E Netzach è stravagante, è più alto di Hod. La radiazione di Netzach va da sotto a sopra. In un certo modo Netzach è da confrontare con una vittoria. Tutti noi conosciamo la canzone We Are the Champions ed è cantata con piena dedizione. L'energia quando questa canzone è cantata, tutti hanno nascosto la testa. Questa canzone è un ottimo confronto per Netzach. Netzach corrisponde con la forza di Mosè. Hod corrisponde con la forza di Aronne, che era il sommo sacerdote nel Tempio. Questo è l'amore per il Creatore. Yesod è la forza di Yosef. E Yosef ha fatto le correzioni. 3 patriarchi della nazione di Israele che erano i portatori, qual è il significato di vettore? Avevano tirato giù la forza di Zerampin a se stessi e portato questa forza nel nostro mondo. Abramo portò la forza di Chesed di Azilut nel nostro mondo. Isaac ha portato la forza di Gvura nel nostro mondo. E sai come entrambi sono necessari. Yaakov ha portato la totalità di Tiferet nel nostro mondo, e tuttavia questo non era abbastanza. C'è anche la parte inferiore di Netzach, Hod e Yesod. Più tardi tre nuovi uomini apparvero. Uno di loro era Mosè, che era il vettore della forza di Netzach, la quarta sfirà dal mondo Azilut. E c'era suo fratello Aaron, che era il vettore di Hod, la quinta sfirà di Zerampin, e lui ha tirato la forza di questa sfirà nel nostro mondo. Come già sapete, nulla viene dall'alto se non è generato sotto. E Yosef era il vettore di Yesod. Yosef ha corretto Yesod. Quindi, in un certo modo, tutti noi abbiamo a che fare con Yosef. C'era una donna egiziana che voleva sedurlo, e anche questo si riferisce a Yesod. E quando lei lo ebbe nel suo letto, alla fine lui rifiutò. Significa che lui aveva superato il potere di Yesod all'interno, e per questo portò il potere della resistenza al di sotto, al popolo di Israele. E infine c'è l'ultima sfirà, Malkut. Malkut è l'ultima ed è David. Re David era il portatore di un intero regno. Il significato di Malkut è regno. Si dice che il regno dei cieli è stato portato qui sotto da David. In tutto ciò che leggi bisogna ricordare che non sto parlando del popolo ebraico. Sto solo parlando di forze. Forze, e alla fine la forza di David finirà il regno dei cieli qui sulla terra. Ora puoi capire perché si dice che il Messia sarà un discendente di David, perché David aveva costruito la forza di Malkut. Da David viene il Salvatore. Tutto questo è possibile derivare dai 10 Sfirot. In questo vedi che non sto solo pronunciando parole. Come ho detto prima, la Kabbalah deve essere una cosa pratica. Ci sono 7 Sfirot e puoi confrontarli con 7 persone sante che appartenevano alla nazione di Israele e hanno portato giù tutte le energie a questi 7 Sfirot. Ancora una volta lo Zohar dice che 3 linee di Malkut sono diventate Netzach, Hod e Yesod. Quindi dov'è la Malkut? Lui dice: e con la complessiva Malkut sono 10 Sfirot. All'inizio ti ho detto che Malkut è nascosta nel Keter, ma quella è la generale Malkut. Nello speciale ci sono sempre 10 Sfirot. Nel generale la Malkut de Malkut è nascosta in Azilut in Atik, ma nello speciale ci sono sempre 10 Sfirot. 10 Sfirot speciali, chiaro? Ci sono 3 Kelim, e questi 3 Kelim sono Binah, Zerampin e Malkut. E questi 3 hanno 10 Sfirot. Porta nella tua memoria la storia del bambino che ha 10 Sfirot, testa, corpo e gambe. Certo, è più piccolo di suo padre, ma è completo. Anche lui ha Binah, Zerampin e Malkut. Qui ci ha detto che Binah ha Chabad, Chokmah Binah Dat. C'è poi Zerampin, e lui ha Chagat, Chesed, Gvura e Tiferet. C'è sempre la destra, la sinistra in mezzo. Più tardi ci dirà come le tre linee sono sorte, ma questo è per dopo. E la parte più bassa significa che i tre Kelim inferiori di Malkut sono Nei, Netzach, Hod e Yesod. E in questo modo ci sono in ogni Parzuf 10 Sfirot, Chabad, Chagat, Nehehim. Chabad, Chagat, Nehehim. Alla lingua ebraica piacciono le abbreviazioni. Chabad appartiene alla testa o alla parte superiore di un parzuf. Lo stesso con noi. Anche noi abbiamo una testa e nella nostra testa ci sono Chokmah e Binah. Il nostro cervello è diviso in due metà. La parte destra del cervello ha a che fare con la comprensione e la sinistra è per l'intuizione. La destra è il nostro pensiero logico e la sinistra è il nostro istinto. In questo vedi che entrambi sono presenti in un essere e ovviamente in generale le donne hanno più istinto e gli uomini hanno la logica, ma entrambi sono presenti all'interno di una persona. Le donne sono più incisive. Gli uomini non possono prendere decisioni in generale, ma devi sapere che entrambe sono presenti in un essere. È meglio dire che in una persona domina la femmina e in un'altra persona domina il maschio. Se puoi capirlo, capirai anche che è buono avere entrambi presenti in un meeting. Pertanto portano equilibrio e quindi le decisioni possono essere fatte. Anche tu hai entrambi. A volte è meglio ascoltare la tua femmina, la tua intuizione, e a volte hai bisogno del tuo lato maschile, del cervello logico. Usa entrambi. Non dire mai lui è un uomo e non può sentire o è una donna e non sa nulla. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Ci ha dato molte informazioni e ora farò un riassunto. Siamo vicini alla fine della lezione e ci avviciniamo alla formula di salvataggio. Il mio atteggiamento è cambiato. All'inizio non sapevo come spiegare la formula di salvataggio, ma ora posso continuare. Ci ha detto in ogni parzuf c'è Keter. Questi due Kelim mancano e non possono essere sperimentati. Chokmah, queste due luci sono incorporate in Binah. Binah, questi tre Kelim sono presenti all'interno, Zerampin o Tiferet e Malkut. E ripeto, Keter Chokmah, questi due Kelim mancano e non possono essere sperimentati. Queste due luci sono incorporate in Binah. Binah, Zerampin o Tiferet e Malkut, questi tre Kelim sono presenti all'interno. Ci ha detto che c'è la divisione di Binah, Zerampin e Malkut in 10 Sfirot. Ogni Sfira ha 10 Sfirot e possono assorbire la luce. Kli Binah, Chokmah, Binah, Dat, Rosh, testa, parte superiore. Kli Zerampin, Chesed, Gvurah, Tiferet, Toch, busto, parte nel mezzo. Kli Malkut, Netzach, Hod, Yesod, e la complessiva Malchut, Sof, i piedi, la parte inferiore. Quindi Rosh, Toch, Sof. Tre Kelim e ognuno di essi ha 10 Sfirot. Questo puoi confrontarlo con un bambino che è completo, o anche un topo o una formica. Sappi che ogni creatura ha 10 Sfirot. I Kelim sono la luce che è più ruvida, o si può dire che i Kelim sono incisioni, luoghi in cui la luce può entrare. Ogni essere vivente ha incisioni, un serbatoio dove può arrivare la luce. Quando dico ogni essere vivente, intendo anche piante. Binah, Chochmah, Dat, Gvurah, Chesed, Tiferet, Hod, Netzach, Malkut. Chochmah, Chesed, Netzach sono nella destra. Binah, Gvurah, Hod sono a sinistra. Dat, Tiferet, Yesod, Malkut sono nel mezzo. Ci ha anche detto che Tiferet ha 6 Sfirot. Lascia che ti dia una piccola spiegazione su Tiferet. All'inizio dello Zohar parla di Tiferet e dopo si riferisce a Zerampin. Questo è un po' confuso. Da una parte c'è la sfira Tiferet, come una sfira, e dall'altra c'è Tiferet, che si riferisce a un totale di 6 Sfirot. Questo Tiferet, che si riferisce al totale di 6 Sfirot, è anche chiamato Zerampin. Più tardi usa sempre più Zerampin e abbreviamo questo nome in Za, Z-A. 5 Sfirot di Zerampin sono collegati e alla fine vengono dati al complessivo Yesod. Qualunque cosa Yesod riceva dai 5 Sfirot, i Chassadim lui li passa a Malkut. Yesod appartiene alle 9 luci, o in altre parole, alle caratteristiche del Creatore. Malkut non appartiene. Malkut non ha nulla da se stessa. Ciò che ha, lo ha ricevuto da Yesod. È chiaro? Dopo la prima limitazione non può ricevere. Netzach da a Hod e Hod da a Yesod, o entrambi danno a Yesod. Prima tutti i Chassadim da Chesed vanno a Gvurah, da lei a Tiferet, e alla fine Chesed e Gvurah sono opposti. Sono uguali, eppure sono opposti, e la loro unità è in Tiferet. Ecco la ragione per cui è disegnato in questo modo. Va da Chesed a Gvurah, o si potrebbe dire che la radiazione va da destra a sinistra, da una sfira superiore a una sfira inferiore. Il motivo per cui l'ho disegnato in questo modo è perché Tiferet è la sfira che fa Shalom. Lo stesso qualitativo. Lo disegno qualitativo. La luce va da Chesed a Gvurah e così via, ma dal mondo Azilut succede qualcosa. Tiferet fa Shalom tra Chesed e Gvurah e Yesod fa Shalom tra Netzach e Hod. Quando guardi più da vicino, vedi nella sfira Binah che non c'è Shalom tra Chochmah e Binah, e ovviamente c'è sempre Shalom tra Binah e Chochmah, ma possono fare solo Zivug quando appare Dat. Cos'è Dat? In un certo modo Dat è la quintessenza di tutti e 7 gli Sfirot. quando tutti e sette gli sfirot inferiori, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malkut, applicano una richiesta a Binah, che è la madre, nel principio della realizzazione del mondo tutto veniva da sopra a sotto e ora questi sette sfirot inferiori hanno il desiderio di tornare, pertanto fanno una richiesta che è chiamata Man e, come una preghiera, chiedono di stare di fronte a Binah. Per mezzo del nostro desiderio, richiesta, portiamo nello sviluppo Dat. Ogni volta che hai il desiderio, sappi che questo è Dat. Dat non è una sfirà, ma una forza che è applicata dal basso, e quando questo accade, Dat è come una sfirà. Tutte le forze inferiori che porti sopra sono chiamate Dat. Letteralmente Dat significa conoscenza, ma non è la conoscenza di questa terra. Ogni volta che fai una richiesta hai bisogno di qualche conoscenza in ciò che la richiesta è. Pensa alle cinque domande e questo a Dat lo coinvolgerebbe. In questo puoi vedere l'importanza di Dat. A volte paragoniamo Dat a un ambasciatore. Il compito di Dat è di stare tra Binah e Chokhmah, proprio come un ambasciatore che è l'intermediario tra due paesi. E il tuo ambasciatore è Dat. Chiaro? Ma se un uomo pecca, cosa accadrà subito dopo se pecca? Con i peccati intendo il momento in cui qualcuno inizia a parlare di donne. Sai cosa intendo? Quindi è meglio parlare di calcio, perché se inizi a parlare di donne, cosa accadrà? Causi al tuo Dat che affondi, e significa che Binah non vede la necessità di effettuare un contatto con Chokhmah. Il contatto con suo marito è necessario per darti luce. Se inizi a parlare di altre donne, Binah sa che non hai la forza per fare una richiesta. Non hai carenza, e quando non c'è carenza non succede nulla. Binah non farà nulla. Lascia che ti faccia un esempio terreno. Quando il bambino dorme, anche il padre e la madre dormono. Prenditi cura del tuo Dat, e Dat è l'ambasciatore tra Binah e Chokhmah. Quello è il suo posto, quindi non appartiene ai dieci sfirot. È chiaro? È noto che nella testa di Arich Anpin di Atzilut sono solo due sfirot, Keter e Chokhmah, e sono chiamati Ketra, Keter e Chokhmah nascosti, e la sua Binah apparve dalla testa di Arich Anpin ed è diventata l'aspetto corpo. È da dire solo Vak, dove manca il Mohin della testa. Il rabbino Yehuda ci dà una spiegazione dei numeri e ha già spiegato i numeri di 5, 6, 7 e 10 e ci ha detto il significato di questi numeri. Ora continua con il numero 13. Qual è il numero 13? Ci sono solo 10 sfirot? Qui abbiamo un nuovo problema e ci piace sapere qual è il significato del numero 13. Ci sono 13 caratteristiche di Rahamim, gentilezza. Il Creatore circonda il popolo di Israele con 13 caratteristiche di gentilezza. Ma qual è il significato di questo? Lui comincia a spiegare. Quando leggi il testo ebraico, lo devi guardare come un puzzle, ma proprio solo come un puzzle puoi risolverlo. E cosa c'è di più ricevi comprensione e puoi sperimentare anche quando non c'è comprensione, perché nel leggere le lettere ebraiche ti darà molto più di quanto tu possa mai ricevere dall'apprendimento terreno. Come mai? Perché il tuo interiore conosce e capisce lo Zohar. Quando apri il libro Zohar, lo vedi come il tuo libro. Pensa, questo libro è su di me. Non pensare che lo Zohar sta parlando di altre persone. Lo Zohar parla solo di te, e ciò dà l'opportunità di conoscere gli Sfirot, perché gli Sfirot sono dentro, quindi puoi sentirli. Come già sai, un essere umano è un piccolo mondo. Dentro l'essere umano c'è un piccolo universo. Non esiste nulla nel generale che non esiste nel particolare. Presto arriverai alla conoscenza delle leggi e dei principi dell'universo e non ti perderai nella quantità di parole. È noto che nella testa di Ari Chanpin del mondo Atzilut. Keter di Atzilut. Atik è un intermediario tra Adam Kadmon e Atzilut. Il primo Parzuf è visto come Ari Chanpin. Come sai, ogni Parzuf è diviso in tre parti. Keter, Kochmah e Binah sono la testa. Chesed, Gvura e Tiferet sono il busto. E Netzach, Hod, Yesod e Malkut sono le gambe. Lo stesso come un essere umano. Testa, busto e gambe. Nella testa di Ari Chanpin, la testa significa i primi tre Sfirot di Ari Chanpin, e quello è Keter di Atzilut. Atzilut è il mondo della correzione, e tutta la salvezza viene da lì, a noi se ti porti in accordo con esso. Sono solo due Sfirot, Keter e Chochmah. Hai imparato questo. Si dice che nel mondo di Atzilut ci sono solo due nella testa, ovvero Keter e Chochmah sopra. Poi la linea di divisione, perché alla luce di Chochmah non è permesso di entrare, e sotto la linea di divisione ci sono Binah, Zeranpin e Malkut. Tre sono caduti giù nel corpo. E sono chiamati Ketra, Keter e Chochmah nascosti. Ketra è una parola in aramaico, in ebraico è Keter. Qui sta parlando della Chochmah nascosta, perché Chochmah è nascosta? La ragione perché Chochmah è nascosta è che così nulla può scendere ai mondi più bassi di Bria, Yetzirah e Asiyah. Te l'ho già detto, Keter e Chochmah, fino al Gmar Tikkun, la correzione finale non gli è permesso di portare la luce nella creazione. Questo può solo accadere dopo l'arrivo del Messia. Ma ciò che puoi ricevere dal mondo Atzilut in questo momento è sufficiente. Dice che in Ari Chanpin ci sono solo Keter e Chochmah nella testa. E la sua Binah è apparsa dalla testa di Ari Chanpin. Significa che lei è sotto la linea di divisione. Questo lo sai già. Ora stiamo parlando del mondo Atzilut, che è il mondo della correzione. Questo posto è leggermente sopra il luogo in cui nacque Adam. Significa l'osservazione degli organi di Adam, che era il primo essere umano, che poteva sperimentare e sentire tutte le cose alte che erano così delicate. Ed è diventato l'aspetto del corpo, significa Binah. Ciò che non era nella testa è caduto giù nel corpo, e il corpo è sotto la testa. Keter, Chokhmah e Binah sono sotto la testa proprio come un essere umano. Prima la testa e poi il corpo. Quindi, quando Binah cade sotto la testa, intende che cade nel corpo. Gradualmente imparerai il significato di questo. Per ora accetta e lascia andare la tua resistenza. Non combattere con il tuo intelletto terreno. So che è difficile. Colui che entra in questa stanza è come se entrasse in un altro pianeta. Accetta e lascia andare il tuo pensiero terreno, perché con il tuo intelletto terreno non puoi capire nulla. L'unica cosa che devi fare è andare oltre il tuo intelletto e renderti ricettivo, aprirti e gradualmente l'esperienza sarà tua. Sei qui per imparare che non c'è nulla da imparare dal vero spirituale, c'è solo l'esperienza, il sentimento, e sappi che il sentimento sarà tuo un giorno. Non esitare, accadrà, e quando sarà il momento ti sentirai favoloso. Quello è il momento in cui dirai: questo è ciò che voglio fare. Ma prima che questo accada, hai bisogno di essere paziente. Nessuno può dirti quanto bisogna aspettare, e finché non succede, renditi piccolo, umile per lo Zohar. Tutte le cose che ti dico, davvero devi renderti piccolo per lo Zohar, per il tuo intelletto superiore. Questa è l'unica via. Per favore accetta che non c'è un altro modo. Appena dici lo so, è finita, mentre non finirai mai. Una volta sono stato invitato a parlare di Ramchal e dissi di no. Non visito mai congressi perché tolgono la tua forza. Il pericolo è che tu possa pensare: sono così intelligente, so tutto. E questa è una trappola. Binah cade giù nel corpo. Tutto quello che è caduto sotto la testa, cos'hanno? Qual è stata la forza che il corpo ha ricevuto? Perché, come sappiamo, il corpo non ha testa. Sta significando che Chokhmah non può venire nel corpo? La risposta è che il corpo riceve solo la luce dei sei Sfirot di Zeirampin. Nel corpo c'è solo l'esperienza di sei luci di Zeirampin. Come già sai, la testa corrisponde alla lettera Yud e la luce Chokhmah è solo nella testa. Il corpo non ha una testa, quindi nessun Chokhmah. La lettera Vav è oblunga ed è chiamata la luce di Chassadim o la luce di bontà, ma la luce della testa non c'è. Binah scende e si trova sotto la testa, quindi Binah non ha Chokhmah, solo la luce di Zeirampin. C'è una legge spirituale che dice: quando un superiore va nell'inferiore, diventa come inferiore. Ricorda questa legge spirituale perché è applicabile anche a te e hai bisogno di sapere che questa legge funziona anche viceversa. Quando un inferiore va al superiore, diventa come un superiore. Se lavori duramente e ti porti in accordo con le qualità del superiore, il tuo livello sarà allo stesso grado come superiore. Chiaro? Questa è una legge spirituale e funziona per tutti. Se ti porti in accordo con il superiore, i tuoi punti di forza diventeranno come superiore. come? A suo tempo lo imparerai. È per dire solo vac dove mancano i mochin della testa. Vac sta per vav ketzavot, sei proprietà estremità, e la luce nella testa è chiamata mochin. Letteralmente significa cervelli. Proprio come il cervello fisico è un campo elettromagnetico, così anche i mochin. Tutta la luce nella testa ha la forza di Chokhmah, e dentro il corpo c'è Chassadim, che è la luce di misericordia. C'è molta somiglianza tra fisico e lo spirituale. La nostra luce nella testa è più tagliente della luce dentro il cuore. C'è molta oscurità dentro il cuore, il che significa che la luce è più nascosta nel cuore. E quando vai più giù appare molta più sofferenza, perché i desideri che hai sotto sono ingestibili. Quando studi Kabbalah impari a gestire queste energie inferiori, anche una grande parte di Malkut. Non la Malkut completa, perché la Malkut de Malkut non è ancora da correggere, ma puoi sviluppare e correggere 9 Sfirot. Fino alla Sfira Yesod puoi ricevere la luce. Dov'è la Sfira Yesod nel tuo corpo fisico? Yesod è l'area tra le gambe. Yesod è molto importante perché solo con Yesod puoi vedere il Creatore. Questo devi accettare, perché la comprensione viene dopo. Qual è il significato di Vak? Vak sta per sei proprietà estremità. Zeirampin ha sei proprietà estremità. Quello nel mezzo dei 10 Sfirot è Zeirampin o Tiferet. E Zeirampin o Tiferet è composto da sei proprietà estremità. Considerando i punti di forza, hai già qualcosa di questo mondo, che significa che se guardi al nostro mondo ci sono sei dimensioni, ossia destra, sinistra, davanti, dietro, sopra e sotto, proprio come il progetto del sistema di controllo dell'universo. Sei proprietà estremità senza la luce della testa, perché Zeirampin riceve sei Sfirot e la testa manca, che significa che non c'è Chokhmah, perché Chokhmah è nella testa, e tuttavia alla fine sperimenterai tutti e 10 gli Sfirot. Cosa si intende per questo? Alla fine vedrai l'intera immagine o tutte le parti appartenenti al puzzle, e quando ciò accade non ti perderai. In un certo modo tutto quello che sta accadendo nel nostro mondo è prevedibile. Questo è assolutamente vero, perché un cabalista questo lo impara, pertanto lo sa. Chi impara la Kabbalah e ha le giuste intenzioni per questo mondo non può abusare della Kabbalah. Chi impara la Kabbalah vede il quadro, conosce se stesso, quindi conosce il mondo, perché lui è un frammento, un dettaglio del nostro mondo, e collega entrambi i mondi e ne fa uno, che significa che collega la sua Malkut con Binah, o in altre parole collega il mondo superiore con il mondo inferiore. Confinano l'un l'altro. Lo stesso si può vedere quando due cabalisti lavorano insieme. Uno vede un frammento di una realtà e l'altro cabalista vede un'altra dimensione. Entrambi sperimentano altri punti di forza, anche se stanno parlando della stessa materia. Ad esempio, uno sta guardando attraverso un buco e l'altro ha una panoramica. Questa è la Kabbalah. tutti lo sperimentano in modo personale e lo usano in modo personale. L'intenzione può essere diversa. Uno lo usa per diventare facoltoso o diventa facoltoso. Ho un amico che è facoltoso e insegna Kabbalah e diventa più facoltoso. Insegna ai ricchi e ovviamente gli viene dato dall'alto. Lui sapeva cos'è la Kabbalah e di non abusare della Kabbalah, pertanto diventa più ricco. Dice che la Kabbalah porta successo nella vita. Ma cos'è il successo? Usano la Kabbalah e non abusano della Kabbalah. Quindi diventano sempre più ricchi. Ma supponi che ci sia qualcuno che vuole diventare ricco attraverso la Kabbalah e abusa della Kabbalah. Che cosa accadrà? Lui riceve il denaro, ma riceve vita, riceve soccorso? È scritto che Zohar dà potere a chi impara lo Zohar. E questo è assolutamente vero. Lui impara le leggi dell'universo, ma qual è la sua intenzione? Se l'intenzione è giusta, non userà la sua saggezza per avere potere sugli altri. Al contrario, usa il potere sul suo male e lentamente supera il malfattore dentro. Usa il potere in modo positivo e usa le istruzioni per superare il suo male. Gesù non ha detto «Ho vinto il mondo»? Così tante persone adorano quest'uomo e l'unica cosa che ha fatto è stato di usare il potere per portarlo in accordo con le leggi dell'universo. Ha lavorato duramente e pertanto lui resta al vertice per molte nazioni. Lui ha il potere. Il potere gli è stato dato perché ha imparato lo Zohar e perché la sua intenzione era pura. Questo è importante, è tutto sulla tua intenzione. Puoi vedere questo? La tua salvezza ha tutto a che fare con la tua intenzione. E c'è di più, perché nello stesso momento in cui ricevi la tua salvezza, l'intera nazione riceve la salvezza, perché ti salvi ogni giorno, e quello è il modo di usare la Kabbalah. Ma quando usi la Kabbalah per avere potere sugli altri, sai che non ci sarà alcun salvataggio, non per te e non per il mondo. Inteso? Certo, si può avere successo, non c'è nulla contro, ma non a costo della tua salvezza. È chiaro? Cosa puoi fare con tutti i soldi se non c'è la salvezza? Si può diventare miliardari e non avere salvezza. Cosa hai scelto? Dice, quello è il segreto di Abba che porta Ima fuori e per questo motivo Binah è divisa in due aspetti, Gar e Zat. Quello è il segreto di Abba, lui porta Ima fuori. Questo è sul principio che Chokmah porta fuori Binah di sotto, nei sei sfirot di Zerampin. Perché questo è necessario? In questo puoi vedere anche la formula di salvataggio. Binah salva i sei sfirot sotto di lei. In un certo modo puoi confrontarlo con sua madre, che si sacrifica per i suoi figli. Puoi confrontarlo con una madre che si sacrifica per i suoi figli. Lei è la testa e per mezzo del suo sacrificio scende per salvare i suoi sei sfirot, qui sei bambini. Scende per loro e non pensa che diventa contaminata da ciò. No, è scesa per salvarli. L'inizio della salvezza è lì che Binah scende dalla testa a sotto. Questo è molto importante. Questo è accaduto nel mondo Azilut e ciò che accade nel superiore si applica anche all'inferiore. Nel mondo Azilut, Binah uscì dalla testa. Chi sono nella testa? Nella testa ci sono Keter, Chokmah e Binah. Ma qui nel mondo Azilut il Creatore ha fatto qualcosa. Ha portato Binah giù di sotto. Qual è l'intero scopo di costruire tutti quei mondi? L'intero significato è ridurre la luce e ingrandire i Kelim. Innanzitutto la luce necessita di essere ridotta, così l'inferiore può sopportare la luce. Ogni cosa viene da Ein Sof, ma nessuno può sperimentare la luce. È per noi che il Creatore ha fatto ogni tipo di irruvidimento, così possiamo sopportare la luce. Varie disposizioni sono state fatte, così possiamo sopportare la luce. Nel mondo Azilut ha avuto luogo una disposizione, ossia la riduzione della luce, così lui può ingrandire i Kelim. È quello che il Creatore ha fatto, così si deve fare. Invece di consumare la luce, vai a Binah, che significa spingere via la luce, e ciò allarga i tuoi Kelim. Meno luce e più Kelim. Questo lo vediamo per la prima volta nel mondo Azilut. Binah scese, l'intera Binah o solo i suoi sette più bassi. Tutta la Binah è scesa, ma la sua parte superiore, lui ce lo dirà. L'esperienza sarà eccezionale, ma abbi pazienza, lentamente. Lui dice così, quello è il segreto di Abba, lui porta Ima fuori. Questo è scritto da qualche parte nella Torah, ma è necessario capirlo correttamente. Questo è tutto sulla Binah di Arichampin, che è scesa dai suoi figli Zerampin e Malkut. E per questo motivo Binah è divisa in due aspetti, Gar e Zat. Gar significa Gimel Rishonot, i primi tre Sfirot, e Zat significa sette Taktonot, sette Sfirot inferiori. Gar è la testa, Keter, Chokmah e Binah. Binah ha la sua testa personale perché anche lei ha i suoi dieci Sfirot personali. Si potrebbe pensare che ognuno di loro ha una testa, ma non lo è. Zerampin non ha testa. Considerando gli Sfirot generali, Zerampin ha sei Sfirot. Ora Binah riceve i tre Sfirot superiori e i sette Sfirot inferiori che danno un totale di 10 Sfirot. Binah scese e pertanto fu divisa in due parti, 3 e 7. La sua testa non è divisa, ha ancora 10 Sfirot della testa, proprio come Keter. Nella testa di ogni Parzuf, di ogni 10 Sfirot, c'è Keter che ha 10 Sfirot. Anche Chokmah ha 10 e Binah ha 10. Poiché Binah è scesa nel corpo, c'era qui il significato di separazione. Poiché Binah è scesa nel corpo, c'era qui il significato di separazione. Gli Sfirot superiori hanno una certa qualità e i suoi sette inferiori hanno una certa qualità, perché c'è una legge e hai bisogno di agire in accordo alla legge spirituale. Pertanto scrivi questa legge, così non ti perderai. L'intero significato della creazione e che tutti gli esseri umani adempiano a tutte le leggi spirituali. Se conosci una sola legge in tutti i dettagli, puoi applicarla in ogni situazione. La legge spirituale di cui sto parlando è: quando una parte di 10 sfirot cambia, diventa qualitativamente diversa da dove essa proviene. La conseguenza di ciò è che questa parte è ora vista come qualcosa di nuovo. Puoi confrontarlo con una famiglia e uno dei figli lascia casa. Appartiene ancora alla famiglia, ma è diventato indipendente. La stessa situazione è applicabile anche qui. Una volta che una parte riceve la sua qualità personale, diventa indipendente, significa un nuovo oggetto spirituale. Hai già visto quando due oggetti, per esempio, si uniscono, un inferiore va a un superiore e diventano uno, ma quando c'è un cambiamento, considerando le loro qualità, si separano. Chiaro? Lo stesso con noi, lascia che ti dia un esempio. Nel passato ero un uomo d'affari, ma al giorno d'oggi non vedo nessuno con cui avevo contatti. Perché? Per la semplice ragione che i nostri interessi sono diversi, sono diventati diversi. Non hanno nulla per me e non ho nulla di loro, anche se forse hanno qualcosa di me, non lo so, ma sicuramente non ho nulla di loro. Non abbiamo interessi comuni. Tutto quello di cui parlano è gioco da bambini, non importa se parlano di politica o di premi Nobel. Per me un vincitore del Nobel è come un bambino. Ovviamente è sorprendente quello che fanno, ma quello che fanno è per loro e indirettamente lo è per l'umanità. In entrambi i modi è infantile. Ho parlato molto con gli scienziati. Tutti sono maniaci del lavoro e qualunque cosa facciano. Non capiscono le leggi spirituali dell'universo. Naturalmente, inconsciamente li applicano. Anche Einstein era a questo proposito un bambino. Era concentrato in una direzione e a causa di quelle enormi intuizioni che aveva nelle leggi della natura, ma dovete sapere che tutte le leggi della natura sono collegate alla nostra Terra e per estensione al cosmo, ma ha qualcosa a che fare con lo spirituale? Assolutamente no, è solo un derivato. Ci dice che Binah venne dalla testa in basso ed era divisa, e lui ci dice perché. Qual è la differenza tra Gar, i 3 sfirot superiori di Binah, e Zat, i 7 sfirot inferiori di Binah, e qual è stata la ragione per cui è stata divisa? Questo non è successo nella testa perché brilla Chokmah. Quando Binah era nella testa, tutti gli sfirot erano Binah. Solo il Keter di Binah è così forte, più forte di Chokmah di Binah, e il Chokmah di Binah è più forte della Binah de Binah. La luce di Chokmah era ovunque, ma ora Binah scese giù, e qui la qualità cambiò, e sono sorti 2 parzuf separati, ossia Abba e Ima, o semplicemente detto padre e madre. Dal Keter, Chokmah e Binah de Binah, sorsero 2 parzuf, ovvero Abba e Ima, padre e madre, e dai 7 sfirot inferiori di Binah, poiché erano qualitativamente diversi, un nuovo parzuf sorse dai 10 sfirot. E questi 7 sfirot inferiori di Binah sono chiamati Israel, Sabah e Tvunah. Forse è la prima volta che leggi questo argomento, quindi è comprensibile che sei confuso, ma abbi pazienza. Devi realizzare che questo non faceva parte della tua educazione, quindi il tuo intelletto ha difficoltà ad accettare. È nuovo, ma per favore sappi che questa è la logica divina e gradualmente sentirai nel tuo cuore come sta crescendo l'accettazione. La tua lotta è la lotta con la tua forza inferiore che finora ha governato su di te. Questa forza è una forza che puoi superare, anche se senti che questa forza è con te ogni giorno della tua vita e pensi di non poter superare questa energia, ma è il desiderio del Creatore che tu superi questa forza. Un grande profeta non ha detto «ho vinto il mondo», prima ha vinto se stesso e di conseguenza ha vinto il mondo. Questo non significa che ha lavorato per il mondo, ma il mondo ha lavorato con lui e ciò che il profeta ha fatto è stato dato anche a te. Anche tu puoi superare te stesso e il mondo, che significa che non sei più uno schiavo da questo mondo. Il mondo ti servirà e non che tu serva il mondo. Non pensare che questo sia stato dato solo a grandi persone, è dato anche a te. Tutte le grandi persone che conosci cosa hanno fatto? Hanno continuato con le domande, non si sono fermati di andare all'interno e di fare domande. Anche tu hai la possibilità di fare lo stesso. Vai dentro e fai domande. A chi chiedi? Chiedi alla tua guida, al tuo sé superiore. Chiedi al Creatore che cos'è Binah e perché è divisa in due. Io non ho la comprensione. Sappi che in ogni domanda è nascosta la risposta. E questa è una delle leggi spirituali. Usala. Conosci questa legge spirituale? Se uno lascia la casa e diventa indipendente, è separato dalle sue origini, che significa che lui sa che ha 10 sfirot individuali. All'inizio Binah aveva solo 10 sfirot. Era ancora a casa, ma ora si muove e scende e lascia la sua casa. Qui significa che i 3 sfirot superiori diventano un parzuf, perché si distingueranno dai 7 sfirot inferiori. Sii paziente, perché lui ce lo dirà, ma è per un'altra volta. Ogni volta tu pensi, ora darà la risposta, ma non succede nulla. Può essere che diventi impaziente, e quello è buono, perché significa che ricevi, che stai costruendo i tuoi kelim. Zohar Otiot Rav Amanuna Saba. Facciamo un salto e continuiamo a pagina 32 dello Zohar, dove si trova l'inizio di uno dei capitoli più belli dello Zohar, l'Otiot di Rav Amanuna Saba. Questo è davvero un capolavoro e ci dirà tutto sulle lettere ebraiche. È importante sapere di più sulle lettere perché questo ti darà più comprensione degli sfirot e viceversa. Lentamente ti spiegherò il rapporto tra loro. L'Otiot di Rav Amanuna Saba. Saba significa vecchio e non penso che questo sia il suo cognome. Tutti i saggi che conosciamo non avevano un cognome. Ovviamente avevano un cognome, ma il loro cognome è sconosciuto e ciò così era che lo volevano. Un essere umano ha un nome, il nome di suo padre, e quello è abbastanza. Quando muore il suo cognome non è menzionato in cielo. Solo qui sulla terra il suo cognome è importante, ma non in cielo. Il tuo nome è importante, le lettere e la combinazione delle lettere dice qualcosa di chi sei. Devi sapere che dall'alto ti hanno dato il libero arbitrio e tuttavia sono loro che hanno stabilito il tuo destino. Sappi questo e renditi conto che non solo le lettere dicono chi sei. Se guardo per esempio qualcuno qui in classe e vedo la persona, conosco il suo nome, faccio una combinazione che significa che guardo lui e il suo nome e vedo cosa è scritto sulla sua fronte. Gradualmente imparerai come interpretare i segni che puoi vedere sulla fronte di qualcuno. Chi sta imparando la Kabbalah è in un certo modo uno specialista di come funziona l'anima. Non è uno psicologo, ma è uno specialista dell'anima. Tuttavia, devi sapere che nessuno può vedere quali sono i kelim di un'altra persona, ma può vedere cosa è necessario. Ma prima tu devi raggiungere questo, e c'è ancora molta strada da fare. Un passo alla volta, e se ci tieni ad imparare lo Zohar, perché è tutto nascosto nello Zohar, stupirà che le cose accadranno. Assolutamente. Non hai idea di cosa ti porterà il futuro. Sarai sbalordito. Il nostro studio diventerà più intenso e più vedrai e sentirai. L'intenzione di questo corso è, e devi sapere, che è l'intenzione della stessa Kabbalah, che colui che studia la Kabbalah otterrà il sentimento e l'esperienza dello Spirito Santo. Sarà capace di comunicare con il Creatore tramite il suo Spirito Santo e non pensare che sarà solo di tanto in tanto, ma ogni minuto puoi comunicare con il Creatore. Devi solo invocare, e come già sai che nulla viene dall'alto se non è suscitato dal basso. La gente pensa che in un lampo gli viene un'idea luminosa. Non funziona così. Sei tu tramite il tuo invocare. Qualche lezione fa l'ho confrontato con l'uso del tuo cellulare, così facile. Puoi sperimentare e sentire il Creatore e la sua salvezza direttamente all'interno quando chiami il suo nome. Tutto dipende da te. Dipende tutto da te. Non pensare ai punti di forza da sopra. Naturalmente i punti di forza da sopra vogliono dare a te e a loro manca solo l'esperienza. Tu non sai cosa stanno dando. L'intero significato di questo studio è suscitare, purificare e costruire te stesso, così tu puoi avere il sentimento di cosa stanno dando dall'alto. Questo devi farlo da te. Tutto il salvataggio dipende su cosa stai facendo qui sotto e non conta su di me o su qualcun altro. Solo tu puoi farlo accadere. Ci sono persone che vogliono che io le guidi. Non posso guidare nessuno. Il mio compito è di darti un metodo e quello è. Le persone hanno domande. Domande semplici e talvolta domande molto private, a cui non rispondo. Non sono la loro guida. La tua guida è il Creatore, il tuo Creatore, è chiaro? Gradualmente saprai e vedrai chi è il tuo Creatore. Non pensare che questo fosse solo per gli ebrei. È dato a tutta l'umanità. Il compito del popolo ebraico era di trasmetterlo, ma non è il loro. La mia gente conosce lo Zohar, ne hanno bisogno, pensano di averne bisogno come religione, ma come ti ho già detto, la Kabbalah non è una religione. La Kabbalah è un metodo assolutamente disponibile per ogni persona che è interessata, non importa quale sia la sua cultura, la sua religione. Ricorda questo, la Kabbalah è per ogni essere umano. Ora cominciamo con la lettera Kaf Bet. Mamar Otiot de Rav Amanuna Saba, il capitolo delle lettere di Rav Amanuna Saba. Bereshit Rav Amanuna Saba dice, vediamo le lettere invertite, Bet all'inizio e seguita da Bet, è per dire Bereshit Bara, seguito prima da Aleph e segue con Aleph, è per dire Elohim Et. Ma quando è entrato Kadosh Baruch Hu e desiderava creare il mondo, tutte le lettere erano nascoste e 2000 anni non ha ancora creato il mondo. Ma Kadosh Baruch Hu guardò attentamente e lui giocò con loro. Il rabbino Amanuna Saba apre con Bereshit, la prima parola della Torah. Bereshit, nel principio il creatore, ha creato il cielo e la terra. Il testo ebraico inizia con Bereshit. L'intera Torah, l'intera istruzione dell'universo, inizia con la lettera Bet, seguita da Reshit. Breshit, tradotto tradizionalmente come nel principio. Lui apre la Torah e guarda la prima parola della Torah e inizia a spiegare. Rav Amanuna Saba dice: non pensare che tutto ciò che senti provenga da me, perché non lo è. Guardo solo al testo di Sulam. L'inizio del testo è in aramaico, quindi la traduzione ebraica di Sulam, e finalmente vedi il commento di Sulam, che è chiamato la scala spirituale. I cabalisti l'hanno fatto in questo modo. Hanno preso un pezzo di un certo testo e comunicavano con esso. Significa che lo hanno portato dentro e hanno fatto connessioni spirituali. Non l'hanno collegato con la morale o la grammatica. No, hanno fatto una connessione spirituale. E quello è così diverso in ciò che viene fatto al giorno d'oggi. Bereshit, Rav Amanuna Saba, eccetera. Rav Yehuda Ashlag traduce Bereshit. Rav Amanuna Saba dice nelle parole di Bereshit le prime quattro parole della Torah sono scritte in lettere minuscole e la prima parola è Bereshit. Bereshit bara Elohim et. Et è un indicativo di un oggetto. Noi vediamo che l'ordine delle lettere è invertito. Prima fu scritta la lettera Bet e non Aleph. Un cabalista esplora la Torah. Il creatore è nascosto nella Torah. Come mai? Prima c'è il bisogno di corrispondere con il creatore, considerando la qualità prima che tu possa vederlo. Se non puoi portarti nell'unità con lui, non puoi vederlo. È chiaro? Sebbene lui non ti lasci mai, tu non puoi vederlo perché finché lavori per te stesso, lui stesso non vuole sapere di te. Pertanto un cabalista esplora la Torah e allo stesso tempo ha lo strumento più perfetto per esplorare se stesso e di conseguenza può trovare il creatore. Questo è, era e sempre sarà il desiderio del creatore. Il creatore si rivelerà a te stesso nel tuo apprendimento della Torah o mentre stai imparando la Kabbalah. Rav Ammanun HaSabba vide che la Torah iniziò con la lettera Bet e non con Aleph, e ora inizia a esplorare la ragione di questo. Non con il suo intelletto terreno, ma rendendosi vuoto, si è reso ricettivo a ricevere la comprensione superiore. La lettera Bet era seguita da una seconda lettera Bet, e poi venne la lettera Aleph, seguita da una seconda lettera Aleph. Bereshit bara Elohim et. La E di Elohim sta per Aleph in ebraico, lo stesso con la E di Et. Per Rav Ammanun HaSabba questo era strano e si chiese perché. Lo sapeva, e tu sai che l'alfabeto inizia con Aleph, ma non qui nella Torah. La Torah inizia con Bet, seguita da una seconda Bet, e poi la lettera Aleph, seguita da un secondo Aleph. Perché? C'è stato un tempo che tutti parlavano ebraico. Ognuno di voi ha tracce di questa lingua all'interno. Nei primi giorni non parlavano di ebrei o non ebrei. Il compito per gli ebrei era di preservare questa lingua, mentre altre nazioni, c'è stato un tempo che è chiamato la Torre di Babele. In questo periodo della Torre di Babele, tutte le nazioni furono sparse in tutto il mondo. Prima di questo tempo, tutte le nazioni parlavano una sola lingua, l'ebraico. L'ebraico era il linguaggio dell'umanità. Il Creatore ha dato una sola lingua all'umanità. Non pensare che una lingua sia di più o di meno. Se hai ancora quell'atteggiamento, lavora duro. Non c'è superiore o inferiore, né buono o cattivo. È diverso di sicuro e questo è tutto. L'unica differenza sta nel compito che è dato agli ebrei per preservare la lingua e adempiere al compito dato a loro di portarli giorno e notte in unità con il Creatore e di trasmetterlo agli altri. Questo è il compito dato dal Creatore a loro e ciò che devono compiere. Dopo la generazione della Torre di Babele, tutte le nazioni furono disperse e il Creatore portò confusione nella loro lingua. Qual è il significato di confusione? La semplice ragione della confusione è che non potevano più capirsi. Anche questo era necessario e i dettagli puoi impararli nello Zohar. Bereshit bara, prima una bet, seguita da una bet, e poi Elohim et, l'alef seguito da un alef. Rav Ammanun HaSabba vede questo e due domande sorgono. Quando Kadosh Baruch Hu desiderava creare il mondo, tutte le lettere erano nascoste, e per dire che la loro espressione non era stata vista. E 2000 anni lui non l'ha ancora creato il mondo. Ma Kadosh Baruch Hu ha guardato attentamente e lui giocò con loro. C'è qualcosa da imparare se non hai la Kabbalah? Se non ti rapporti a questo albero della vita, c'è qualcosa da capire? Quando ero più giovane ho imparato qualcosa di simile. E ho avuto domande per il mio rabbi. E cosa ha fatto? Mi ha raccontato delle fiabe. Mi spiace, ma per me è stato come le fiabe. Ora conosco meglio e vedo com'è importante fare una relazione con l'albero della vita per collegarlo con i 10 sfirot. Qual è la connessione considerando i punti di forza combinati o un'altra sfirà? Questo ha senso e ci chiarisce direttamente che 2000 anni prima della creazione del mondo il Creatore guardò alle lettere dell'alfabeto e lui si divertì. Quanto è meraviglioso, ma qual è il significato più profondo. Sulam spiega. Spiegazioni di parole, due obiezioni si fecero avanti. Perché vennero le lettere Aleph Bet invertite all'inizio della Torah? Prima la lettera Bet, seguita dalla lettera Aleph. Perché sono raddoppiate queste lettere, che prima sono venute due Bet dalle due parole Bereshit Bara e poi due Aleph di due parole Elohim Et. Spiegazioni di parole, due obiezioni vennero avanti. Difficoltà o obiezioni lui vede nella Torah e ora ha delle domande. Le domande sono buone, perché questo impara che non è bene assumere qualcosa. Da una parte, proprio come un uomo ha bisogno di due piedi, destra e sinistra, abbiamo bisogno di due lati. Da un lato c'è la necessità di arrendersi a ciò che chiamiamo fiducia al di là dell'intelletto. E questo può accadere solo quando qualche intelletto è coinvolto. Prima hai bisogno di un po' di intelletto, prima di poter andare oltre l'intelletto. La Kabbalah prima alimenta la linea sinistra, che significa comprensione extra, e quindi puoi andare oltre l'intelletto. Questo è ciò che si intende quando dico camminare su due piedi. Egli affronta due problemi, ossia, perché le lettere dell'alfabeto sono state invertite all'inizio della Torah, la prima Bet, Bet, e poi Aleph, Aleph. Questo è un problema che vede e vuole indagare. Perché la Torah inizia con Bet e non con Aleph? Rav Ammanunah Sabah sa che ogni parola scritta nella Torah ha un significato e, per di più, niente è semplice o superfluo. Ogni cosa ha un significato come è conforme alle leggi dell'universo. Deve essere conforme alle leggi dell'universo, altrimenti non può portare la redenzione. Perché sono raddoppiate queste lettere, che prima ci sono due lettere di due parole, Bereshit, Bara, seguite da due lettere, Aleph, per le due parole, Elohim, Et. Cosa significa doppio? Le prime due parole sono Bet, Bet. Doppia Bet, Bereshit Bara, e poi arriva la terza e la quarta parola, due parole con Aleph, Aleph, anche doppia, Elohim, Et. Abbi pazienza, spiegherà. In questo vedi come funziona esattamente. Se leggi questo con la tua mente terrena, la tua immaginazione non ha fine, quindi è difficile da capire. Ma devi conoscere la Torah, tutto ciò che è scritto nella Torah, i segreti della Torah, sono punti di forza provenienti dall'universo. È chiaro che lui porta due problemi. Il primo è perché la Torah inizia con la Torah. Il primo è perché la Torah inizia con due bet. E il secondo problema è perché le lettere sono doppie. Lui ci dirà.